Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a dicembre del 1806. Proclamato il blocco continentale, le navi battenti bandiera inglese non potranno attraccare in Francia. Resistenza a Lauria, il generale Massena compie un massacro, sedata la rivolta in Calabria. Un altro fratello dell'imperatore su un trono europeo, Luigi Bonaparte, è re d'Olanda. Stati Uniti, la spedizione di Lewis e Clark raggiunge il Pacifico e torna indietro. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento avrà effetti pesanti sul commercio mondiale la decisione presa dall'imperatore Bonaparte per contrastare l'Inghilterra. Dal 23 novembre scorso le navi battenti bandiera inglese non potranno attraccare nei porti francesi. L'obiettivo di Napoleone è contrastare la supremazia britannica in mare, ampiamente dimostrata in più occasioni, di cui l'ultima è stata la battaglia di Trafalgar. E ora andiamo in quello che fino a poco tempo fa era il Regno di Napoli. La resistenza filo-borbonica o comunque antifrancese viene in questi mesi repressa nel sangue. C'è già chi la chiama insurrezione calabrese. Di certo i francesi non si aspettavano una resistenza così dura, sebbene proprio da quelle terre 7 anni fa il cardinale Ruffo fosse partito alla riconquista di Napoli con i suoi sanfedisti. Fatto sta che alcuni pezzi della società calabrese e lucana si sono ribellati e l'esercito di Parigi sta reagendo con estrema durezza, con il terrore e il sangue. Esemplare la vicenda di Lauria, dove un migliaio dei 7.000 abitanti della città, tra cui pare anche donne e bambini, è stato ucciso dagli uomini comandati dal generale Massena, che ha anche vinto la resistenza a Soveria Mannelli ed ha espugnato Camerota. I francesi sono riusciti, grazie a una soffiata, a catturare il brigante Michele Arcangelo Pezza, soprannominato Fra Diavolo, attivo anche durante la rivolta sanfedista e che si era guadagnato sul campo i gradi di capitano dell'esercito borbonico. Con quell'uniforme è stato impiccato sulla piazza del mercato di Napoli e il suo corpo è stato lasciato esposto a monito per il popolo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto un altro parente dell'imperatore su un trono europeo. Si tratta del fratello Luigi Bonaparte, che Napoleone ha voluto re della ex Repubblica Batava, ora tramutata in Regno d'Olanda. Negli Stati Uniti ora li davano per dispersi, ma sono tornati Meriwether Lewis e William Clark. Gli esploratori incaricati dal governo americano di arrivare via terra fino al Pacifico hanno raggiunto la città di St. Louis il 23 settembre, a 3 anni circa dall'inizio della loro spedizione. Pur essendo riusciti in questi mesi ad inviare molto materiale, tra cui esemplari di specie botaniche e uno di un curioso animale ribattezzato cane della prateria e molto simile ad una marmotta, si pensava che non ce l'avrebbero fatta. Gli uomini della spedizione hanno avuto contatti con parecchie tribù di indigeni ed è stata proprio un'indigena, Sacajawea, moglie di un francese, ad aiutarli a ritrovare la strada di casa. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Potete anche da là visitare il nostro blog. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.